que j'ai là. Tu vois. Panji gebe zuje zongwa ba, la san chabe xiao la so wande, me me zave de jin jin re si, te me kien, mongbong jambe ya, dubu male jumze san e da, panji gebe zuje zongwa ba, la san chabe xiao la so wande. Eh, generiamo una buona motivazione, come facciamo di solito, e pensiamo che noi desideriamo ottenere la perfetta e completa illuminazione, lo stato di un Buddha, e per poter beneficiare tutti gli esseri viventi che sono vasti come lo spazio, che sono tutti stati nostre gentili madri, e che per poterlo fare noi ascolteremo questi insegnamenti profondi e preziosi che ci permetteranno di ottenere le realizzazioni necessarie per poter raggiungere questo traguardo. Nel sabato scorso noi abbiamo ascoltato insegnamenti e abbiamo detto che cerchiamo di trasformare, di adoperare una trasformazione che di trasformare in meglio il nostro corpo, la nostra parola e la nostra mente. Come farlo? Qual è il metodo? Qual è lo strumento? Lo spiegheremo oggi. In genere si può dire anche che tutti i testi, tutti gli insegnamenti non sono altro che uno strumento, un metodo per migliorare e trasformare la nostra mente. Però oggi parleremo in modo particolare di uno strumento che è adatto a coloro che sono chiamati esseri ordinari come noi, o principianti come lo siamo tutti rispetto agli esseri realizzati, e questo strumento, questo metodo, questa tecnica è la preghiera o l'offerta in sette rami. L'origine di questo insegnamento è, come è descritto nei sutra, in una domanda che Ramjor fece a Buddha Maitreya. Il Ramjor è il nome di questo bodhisattva, ha un significato importante etimologico. Ram o Rab vuol dire superiore, migliore, perché ha raggiunto uno stato che è migliore dello stato dei Shravaka ascoltatori e dei Pratyeka praticanti i realizzatori indipendenti. Jor vuol dire ricco di qualità, con le qualità mentali perfette e completamente realizzate. Lui fece la domanda e disse a Buddha Maitreya: come possiamo fare per raggiungere lo stato di un Buddha senza fatica, cioè nel modo più facile, senza dover faticare? Come risposta Buddha Maitreya ha dato questo insegnamento dei sette rami. Ha cominciato dicendo: mi prostro ai Buddha dei tre tempi, e poi ha spiegato questa tecnica. Kate kasigre sindam chi transpecha chingeshe ji insar stukte du lamrin E dice che Shela, che probabilmente la più parte di noi ha ascoltato tanti insegnamenti, quindi sappiamo tante cose, abbiamo ascoltato insegnamenti di Lambrim, del sentiero graduale verso l'illuminazione, perciò per la più parte di noi sarà un completamento solamente di ciò che già sappiamo. Allora la preghiera o la pratica in sette rami include i sette punti seguenti, omaggio, cioè prostrazione, omaggio, offerte, purificazione o confessione, il gioire dei meriti, la richiesta di girare la ruota del Dharma, la richiesta di non andare nel parinirvana e la dedica dei meriti. Chada Kesham Shujiris, Payon Sam Yimajo Jiris Chatsayat. In a Payon Sam Chatsay, you know, Nitin Zan Dova Mizu Kawashiran Dugu Maris, in a Kambucha Gris. Oh, this is rude. Il primo ramo, il primo punto, è quello delle prostrazioni, della resa di omaggio tramite le prostrazioni. E questo è molto importante perché comporta dei benefici incalcolabili. Inoltre, dice Geshe-la, è molto adatto a noi oggi come oggi, perché oggi tutti aspirano a essere magri, cioè nessuno vuole essere grasso, e quindi si presuppone che siamo tutti magri e possiamo facilmente fare le prostrazioni. Manzo prova in ota medi shakamburi shanyala res gris, kawa yun kawachi gris, takaga res, nezu lumbe, sachung muta, sabu ne jugur of prova in the geshe gris, inji the kamburi shasigris. Ota medi yakundu kawandu sigris, andoa yan kawandu. In Tibet non era così, no? In Tibet chi era povero, chi era magro, era considerato un poveraccio, no? Cioè, poveraccio e magro. E invece chi era grasso era considerato fortunato, era considerato una cosa molto buona, no? In Occidente non è così. Quindi da questo punto di vista, forse per le prostrazioni siamo avvantaggiati. Tati Pajin Chu Yamun Sudu Kanda Severus, the Genlate, Kundishurna. Then the Pakala and Sukala, the Pakala. Oh, Dinzil Shurna. Allora, no. Allora, dice che c'è là che la pratica tramite le prostrazioni si possono fare tutte le pratiche delle sei perfezioni. E allora dice dobbiamo chiedere a Tenzin come si fanno le pratiche delle sei perfezioni tramite le prostrazioni. Aspetta. Allora, prima perfezione, Tenzinda Trapolina Chazelna. Allora, se prendiamo il nostro venerabile, carissimo Tenzin come esempio, il nostro monaco, allora, se lui fa molto bene le prostrazioni e lo fa con grande entusiasmo e si vede che no, per lui non è una fatica, non è un peso, allora chi lo guarda gli viene voglia di farlo, cioè anche chi lo guarda gli viene l'aspirazione di fare come lui, in modo positivo le prostrazioni, e questo è un atto di generosità, quindi lui dona il suo entusiasmo agli altri, e in questo modo lui pratica la generosità tramite le prostrazioni. Lui ci vuole raccontare a questo proposito la storia di una persona in Spagna che lui ha conosciuto. Questo spagnolo è andato come turista a Lhasa per vedere i luoghi, per girare a Lhasa. Quando è arrivato al grande tempio di Lhasa, ha visto tantissime persone che facevano tante prostrazioni con un enorme entusiasmo. Lui si è meravigliato, è rimasto un po' così confuso, però ha pensato: se loro si entusiasmano così, fammi provare anche a me. Ha fatto le prostrazioni insieme a loro e gli è sembrato che è passata una mezz'ora da quando lui faceva le prostrazioni. Ha guardato l'orologio e ha visto con grande stupore che sono passate 2 ore. Quindi, e poi l'ha raccontato a Geshe-la e dice: questo è un modo, col proprio esempio, di praticare la generosità, il dono dell'entusiasmo per la pratica agli altri. Tramite le proprie prostrazioni, dice che ce l'ha in India. Chi va a Bodh Gaya succede la stessa cosa, vede tante persone che hanno grande fede, che offrono di tutto, che fanno di tutto, e allo stesso modo si può venire contagiati. Poi qual è la moralità della prostrazione, che è la seconda perfezione, la seconda paramita? Bisogna fare le prostrazioni senza sbagliare, perché ci sono tante regole per fare le prostrazioni correttamente, quindi evitando tutti gli errori e facendoli secondo ciò che viene prescritto è chiamato la moralità della prostrazione. In genere ci sono 2 tipi di prostrazioni, quelle lunghe e quelle brevi. Le prostrazioni brevi si mette per terra 5 punti o 5 membra del proprio corpo, si tocca con 5 punti. Invece se si fa la postazione lunga, ci si estende per terra in modo che tutto il corpo completamente, dalla punta delle dita fino alla punta dei piedi, tocca per terra, dice che ce l'ha, come un albero che cade, no? Un albero che cade tocca completamente per terra. Invece alcune persone, dice, non so se anche qui ha visto in Occidente, ma in Spagna l'ha visto, quando fanno la prostrazione lunga e si sdraiano completamente per terra, alzano le braccia, ecco, fanno così, no? Ecco, sopra Esatto, dice questo nei testi non c'è, dice lui non sa da dove viene questa usanza, nei testi non c'è perché bisogna toccare per terra completamente con le braccia distese. Come bisogna fare con le mani? No. Solo le mani mostra. Esatto, mani, ok. Cosa dove? E poi dove tocchi? Ya. Bene. No. È così, perfetto, perfetto. E cosa simboleggia il toccare per la testa così con le mani congiunte? Da di sangue chi tutto. Tutor. Di. Di tra chi sangue chi di la pucare sentire zibu. Zibu. Zibu. Di. Di sangue chi sun yonten sun chi yonten. Di. Quello. Tu chi yonten. Ta. Trazio con un ciò sias. La. Trazio con bot coccio sia cavucium sons. Dice, il tuo studio di Dharma è cresciuto parecchio, tantissimo, e lui è molto contento. Nie ma fece la tasso, da che se la e triva tanchi le ha costo, da la fece la tasso. Allora dice anche il andare a cercare nei testi è ottima cosa, perché se uno non va a guardare nei testi allora non saprà mai. Cosa simboleggia? Ok, dai Angel, allora c'è una versione di 4 punti e poi c'è un, se si fanno anche 3 va bene lo stesso. Allora i significati li hai detti bene. Adesso a cosa bisogna pensare, come bisogna riflettere in ognuno di questi queste fasi. Allora, quando uno mette le mani qui, cosa bisogna che pensi? Quando mette le mani qui, come bisogna riflettere? Allora dice, siccome non abbiamo molto tempo, allora qui è il uno pensa fare così dà la forza per ottenere il corpo di un Buddha. Questo mette le impronte, le energie per ottenere la parola del Buddha. E lì per ottenere le qualità della mente del Buddha. Se uno fa le prostrazioni con questo pensiero, questa motivazione, otterrà benefici incalcolabili. Anche con una sola prostrazione. Allora in questo modo se uno è alto avrà un grande beneficio perché il corpo con la prostrazione copre una grande superficie. E perché si dice che chi è alto è avvantaggiato? Perché c'è scritto proprio nei sutra e anche in altri testi che uno accumula meriti uguali al numero di granelli di terra che il proprio corpo copre quando fa momento la prestazione lunga, e accumula altrettanti meriti per prendere nascita come imperatore universale e a maggior ragione per altre cose. E questo è scritto sia nei sutra che nei testi dei commentatori tibetani, che nei testi dell'Amrim di grandi maestri tibetani. Poi si accumulano le qualità di i meriti per ottenere il corpo di un Buddha, e in più si combatte il difetto, il klesha, l'afflizione mentale dell'orgoglio, che tra i cinque afflizioni di base è il peggiore. Prego. Allora quando nel mago. Da supo rimpo io na peyore. Da supo jappa io na peyo io sareta di sacha chen po ka kire mare pe. Ja wa ri ri ina ya wushira ya maris. Ja wa chushi ina ya wuyaris. Dice, se uno è alto, tipo rotondo in altezza, non serve. Se alto in se grasso in altezza, in rotondità, non va bene. Se grasso in larghezza, è lo stesso principio. È vero, è la stessa cosa, perché proprio è scritto che aumenta la superficie di terra che copre. Allora dice Geshe-la, voi tutti adesso siete in un'ottima situazione perché non siete ammalati, siete in grado di fare le prostrazioni, quindi anche se non avete molto tempo, fate la mattina tre prostrazioni, la sera tre prostrazioni, e la cosa più importante mentre li fate, mentre toccate i tre punti con le mani, fate le tre, i tre pensieri, le tre riflessioni riguardo il... le impronte che accumulate potenziale per ottenere le qualità di corpo, di parola e mente del Buddha, perché se non fate le riflessioni allora non ci sarà il beneficio, però facendo queste riflessioni avrete veramente un beneficio grandissimo. E dice lui vorrebbe fare le prostrazioni ma ormai fisicamente non lo può fare, lui ha dato alla pratica quello che ha potuto e adesso è in una situazione che questo modo di accumulare meriti non ce lo ha più, perciò voi approfittate finché lo avete perché è importante. Dice per ora noi andiamo molto bene, non siamo diventati infermi come lui, come corpo, quindi approfittiamo, l'attenzione al Dharma ce l'abbiamo, l'interesse nel Dharma ce l'abbiamo, facciamo in modo che frutti per noi, che diventi efficace e utile seguendo questa pratica. Se vi ho detto riguardo l'orgoglio, vi ho detto, no? Mikwa samtong kabu yores, tanga dirin ya ji Jabji sonrum ji sumgyu ji yes ta ji sene beje na yondro ma na to ma so in teji shugu yin si kiran so te miba cha de bo yabu yo res Un altro modo di riflettere per chi ci riesce di visualizzare è menzionato nei testi. È un modo un po' più difficile e che riesce più difficilmente ed è il seguente. Uno si immagina e visualizza di manifestare tantissimi corpi e ognuno di questi corpi ha una testa e così via. E uno immagina che tutti questi corpi fanno le prostrazioni, però questo è complicato come visualizzazione. Si trova comunque nell'amrim del che è chiamato la liberazione nel palmo della mano, e Geshe-la possiede un altro lignaggio di Kyabjeson Rinpoche riguardo la visualizzazione, che è più semplice per tutti da fare. Adesso ce lo dirà. Ci chiede scusa che si è scordato di dirci una cosa importante riguardo il modo corretto di fare prostrazione. Lui ha visto in Occidente molte persone che quando fanno prostrazione rimangono per un bel po' nella posizione, per così dire, prostrata, piegata per terra, no? Invece non è da fare così, bisogna toccare per terra, alzarsi immediatamente, più velocemente possibile, perché è considerato di cattivissimo auspicio rimanere nel punto più basso quando si tocca a terra. Si dice che più uno rimane giù, più tempo passerà negli inferni, e invece più velocemente uno si alza, questo simboleggia il fatto che otterremo velocemente l'illuminazione, perciò è di ottimo auspicio. Le preghiere, le visualizzazioni, le preghiere dobbiamo farle non quando stiamo toccando per terra, bensì prima, quando mettiamo le mani, è quello il momento per pregare e fare le visualizzazioni. Cosa dobbiamo riflettere e pensare mentre lo facciamo? Allora pensiamo, le nostre rinascite, le nostre vite passate sono infiniti e non hanno un inizio, rinasciamo da tempi senza inizio. Allora dobbiamo pensare che mentre facciamo le prostrazioni come visualizzazione, dobbiamo pensare che tutte Allora, noi abbiamo avuto infinite nascite negli inferni, infinite nascite come animali, infinite nascite come preta, come deva, come divinità, e dobbiamo pensare che tutti questi esseri delle nostre vite passate stanno attorno a noi nella forma umana e fanno le prostrazioni insieme a noi. E quindi insieme a noi ci sono in forma umana tutte le rinascite come cane, tutte le rinascite come altri animali e così via, e tutti tramite le prostrazioni purificano le negatività accumulate e accumulano tantissimi meriti insieme a noi. E questo è un consiglio particolare che viene dal lignaggio dei maestri che ci viene dato come modo di riflettere. E se noi facciamo le prostrazioni pensando così, avremo veramente infiniti benefici. Allora dobbiamo conoscere il modo giusto fisicamente di fare le prostrazioni, e poi dobbiamo fare la visualizzazione e la riflessione giusta. Inoltre ci occorre un luogo di rifugio davanti al quale fare le prostrazioni. Non è necessario avere assolutamente, non è indispensabile avere immagini o statue, perché i Buddha si trovano ovunque, anche in una casa vuota, in una stanza vuota, i Buddha comunque sono presenti. Dobbiamo pensare che facciamo le prostrazioni davanti a loro. Questo era il primo ramo. Allora, dice Geshe-la, l'insegnamento precedente sull'addestramento mentale in sette punti non l'abbiamo finito. Adesso vuole passare al secondo ramo, perché sennò rischiamo anche i sette rami di non finirli. Allora, passiamo al secondo ramo, che è quello delle offerte. Tenzin, esame. Allora, domanda: qual è la differenza tra l'offerta del mandala, tra offrire il mandala e tra fare le offerte? Il mandala è un'offerta di pensiero, mentre più na, mentre nyamdu dintra chi sansin mempe dintra chi samlo tampe tampa kareina yandia dulcho kireta in chi menadi cioè pabu yadi sansin chi ne po kareyo pa di dulgures ne cioba le lanja le sun cioba puya yo maru es la dintra la parete mentre più na lui lancia yan dulcho kireta trapo dintra la samlo kareta na di dulcho kire dai da di di mendrele ta c'è facenda dentro mare c'è facenda lo itaia io repesire be tanna ciranzo neve cinda mendre de c'ova re c'ova mare scuran cide no da ali dire be mendre c'è paesi ana mai dire be no ali te la ben allora l'offerta del mandala è un'offerta scusa il mandala è un'offerta oppure no c'è paesi no Ta, mandre, ma in che ciò che ci ha eccetto il mandala, quali offerte ci sono? Ciu. Mandre più io, ma rivesta. Non c'è offerta di mandala con acqua, non c'è l'acqua, non può esserci l'acqua nel mandala, nell'offerta del mandala? Ta, mandre più nadina lo la San Maiore. In un corso di vista. E allora perché hai detto che la differenza sta ta c'è fa scenda corsa blu tampa in. Ya ya. C'è qua samto tang in da Allora lui adesso ci darà la, una spiegazione. Mentre con una res. Il mandala è un'offerta. Cioba della mentre in guma res. Però l'offerta non deve essere forzatamente un mandala. Per esempio, il fatto di offrire delle candele, delle lumi, è, diciamo, diciamo, è un'offerta, non è un mandala. Mentre il mandala è ciò che uno visualizza sulle mani, no? Che si fa questo, questo mudra con le mani che voi conoscete, e uno visualizza le offerte sopra questo, questo gesto che si fa con le mani, uno può visualizzare qualsiasi cosa, e quindi questa offerta è sia mandala che offerta. Uno visualizza di offrire il proprio corpo, tutti i propri beni materiali, tutti i continenti, cose che appartengono o non appartengono, il Monte Meru, quattro continenti e gli sottocontinenti, dice che c'era, non so cosa direbbero i scienziati riguardo i quattro continenti, il Monte Meru, lasciamo perdere, dice, però si visualizza tutto questo e si offre nel mandala, perciò un'offerta del genere è sia mandala che offerta. Ta, Mendrege Moyatele, Penangaranzo, Tonyag, Yu, Churu, Mudi, Sesia, Noburu, Putta, Kanaji, Tona, or the Tombadi, Susala Began, Murni, Puna, or Sonum Savioris, Susu, Reda Susu Maris, Inadi, Puchovioris, Mendrege. Noi quando offriamo il mandala possiamo visualizzare qualsiasi cosa e più cose preziose visualizziamo e meglio è, perché più meriti accumuliamo. Per esempio possiamo visualizzare di offrire perle, coralli, pietre preziose, diamanti, visualizzando cose molto preziose accumuleremo tantissimi meriti. Prego. Da disse che induta e tunda di cormoranta parca le caso da ciò ci ne nazo ne pola docia chakpa magena yakare taserla nazo docia lonche da trapola chakpa gemig tal tangureta di da trapo tujun morant intra sam kindu ciò ci ne na co serla gapogena di kvada trapore, ta co sendane na co ser vulgore, ta di la co kare jore, ta njema ne ta kva to kva sa son se, čel so ne? Ta te javu res. Čira, te jikden kamla ngaranzo tongzio juba ge rindan češo de ya mendele mo yinu puna, ne sunum sa čevi jore res. Ka za čevo de puna sunum sa čevi. Te mendele puya de čakba 깨야 된다 말이 차고만 충돌하게 된다 그래서 그래서는 손음 사도 뜨거신데 만든 누가 뜨거인데는 차고 충돌하게 뜨거만 충충돌하게 손음 망보야 손음 관 야제 손수는 뜨거만 정하라고 열어봐 직전 아니야 그 애들 야구들 와서 대사 디스크인데 하나 또 결정 포지야 누구 Ta, ta, tujun, če, ni, če pa ja po in, jena, ser kelche po sikina re da ta ta soso kelche po masina kalde si du ya ya a shi ako sa ko ta se kelche po sik ma res ganga ru yu pumba nan shi res ke ji shaya ji ya res a de ko ye ni mi kum ju go ne shi yo res ta da men de pu ya de sunum sa ya to da shi yo res ne sunum sa ya de la ne ji de kam la a ji kare 인간치기는 거리 여기나 어떻게 하면 수술면은 뭘 푸나 그래서 좀 지가 이제 지랑 도가도 약불했어 이나 어떤데 레스 Allora è un ottimo dubbio il tuo. Allora la risposta è questa. Effettivamente normalmente negli insegnamenti è detto che oro e pietre preziose dobbiamo considerarli come la buccia del grano, cioè la pula completamente senza valore, no? Cioè una cosa che da buttare via normalmente. Però in questa pratica noi offriamo ciò che agli occhi del mondo è prezioso, perché automaticamente offrendo quello che secondo il mondo è la cosa più pregiata, e noi accumuliamo tantissimi meriti. È proprio una legge naturale del karma che funziona così. Non solo, ma più meriti accumuliamo, sempre automaticamente, più negatività purifichiamo. E quindi non solo non accresce il nostro attaccamento, ma stranamente più accumuliamo meriti offrendo ricchezze, più il nostro attaccamento diminuisce, più pratichiamo in qualche modo anche la generosità, e questo aiuta a diminuire il nostro attaccamento alle cose, più le offriamo. Cioè, io non ho capito questo fatto di, cioè, quando facciamo le prospezioni, pensiamo alle nostre vite infinite, passate, come animali, come preta, eccetera, e le immaginiamo come esseri umani. Allora, ottima domanda. Ottima domanda. Quello che noi visualizziamo sono in qualche modo comunque separati da noi, perché sono le nostre gli esseri delle nostre vite passate, però non sono esseri senzienti diversi da noi. Sono noi nelle nostre vite passate sotto forma di esseri umani, cioè noi moltiplicati all'infinito sotto forma di essere umano, esseri umani che rappresentano le nostre varie rinascite in tutti i reami. Quindi non sono esseri senzienti diversi, hanno sempre il nostro continuum mentale, no? Però sono diversi da noi perché sono le nostre vite passate che prendono forma sotto l'aspetto di esseri umani. Vabbè. Facciamo questo, no? Ci può essere qualche momento in cui noi invece li percepiamo anche come con un'immagine del passato, e se col passato comunque, cioè, può accadere che mentre facciamo le prospezioni, pensiamo a quello che ha detto Vicità, le nostre, qualche nostra vita passata. Da da dintra che niam lenge du tanazo e che wa che wagne me chi no si da trapo io si chi refe. No, no. Tanazo che wagne me chi no si. Tanazo che wagne ne mala dintra chi che wa lenso li da trapo chi na wa da no si da trapo io chi refe. Che da mo si qua io roba. Ti io roba sta chi si. Io chi refe. Mo ale mi na wa io roba sta. Ne da io ma Chidang ngā rāngzō gyāwa ngā mā rōhā rītū yō rā bās. Wā tā tī sōsū nyamdō mī nāmbā mō nī wā tū chā sā nā. Mō bā chē nā sōnum sā yā tē lā kato tē gu gu yō mā rā bās. Pē nā sīmjī tamjī sōsū nyingā dō kumyā yō rā bās. Rā bā, wā tī tī sīmjī tamjī sōsū nyingā yō mā rā bā. Sōnum sā yā nā rā mā rā yō rā bās. No, non ci può venire tipo dei flash di chiaroveggenza di quello che erano le vite passate. È solo un esercizio per accumulare meriti. Cioè, visualizziamo questo per accumulare meriti. Ha dato un esempio, per esempio, molte volte uno può meditare che tutti gli esseri senzienti sono nel proprio cuore. E in quel momento non si trovano effettivamente nel proprio cuore, che non ci sarebbe posto, però uno lo visualizza per accumulare meriti. È un po' un esercizio, diciamo. C'è una spiegazione a questo modo di riflettere. C'era Sanje, sono Sanje, come top sono, no? C'era Namajube, Roar, Giù, Kanga, Sanje, come top, Turis, Kanga, Sanje, Roares. E la spiegazione è questo: nel momento che tu otterrai lo stato di un Buddha, il tuo continuum mentale sarà il continuum mentale di tutti quelli infiniti cani, preta, esseri degli inferni, deva, che erano le tue vite passate, no? Quindi tutti questi esseri in quel momento avranno ottenuto l'illuminazione, tutte le tue vite passate. È un po' la stessa cosa. Perciò e questo non è solo un esempio, cioè è la realtà, no? Cioè, in qualche modo, effettivamente, quando tu avrai ottenuto lo stato di un Buddha, insieme a te tutto quel lignaggio, quel continuum di infiniti esseri che tu sei stata, avranno ottenuto lo stato di un Buddha. E perciò questa visualizzazione riflette questo fatto, diciamo. Mm-hmm. Dice che grazie alla tua domanda ha realizzato che lui quando ha parlato della pratica delle sei perfezioni tramite la prostrazione ha parlato solamente di come viene fatto rispetto alla generosità e alla moralità, due delle sei perfezioni, e non ha parlato di tutte le quattro. Dice, io mi scordo così, io sono fatto così, ha detto. Dice, ai vecchi capita questo, cioè si scordano le cose. Un po' perché era molto preoccupato di non finire i sette rami stasera, per quello che si è scordato. Allora, riguardo la perfezione della pazienza, per fare le prostrazioni noi dobbiamo faticare tanto, dobbiamo sopportare la fatica. Questo è uno dei tre tipi di pratica di pazienza, la pazienza del sopportare le fatiche della pratica. E quando noi facciamo le prostrazioni, molte volte vengono anche delle piaghe alla testa, piaghe alle ginocchia, e perciò uno sopporta tante difficoltà per fare le prostrazioni. Questo è l'aspetto di perfezione di pazienza che riguarda le prostrazioni. Ta cha ge zun ru de ne yin cha se du ga xin zhe xin de cha ya de res ni xi wa la ga zong gan ge le zhe wa wo ge ha zhe wa de le zun ru xin ma de xi wa la xi wa la mo jun ju yo ka re xin de zong gan ge le zhe wa wo zong gan ge zong gan se zun ru xie wa de zong ba ma zong gan ge le zhe wa wo jun ju huan ci jie ne zun ru xin de ge ne ji si ge re se ne yin ge ha le zhe wa de si ge re zong gan 그러니까 l'aspetto della perseveranza entusiastica o gioiosa è perché quando uno pratica le prostrazioni, se li pratica nel modo giusto, lo fa con tanta gioia, con tanto entusiasmo. E come disse il maestro Shantideva nel Bodhisattva Charyavatara, la definizione dello sforzo entusiastico è proprio di compiere le azioni positive con gioia e entusiasmo. E perciò questo è l'aspetto di questa perfezione riguardo le prostrazioni. Chag some days another, things is another, can you share the chicken? The nurse said to the Simsiju Nertel, Simsiju the manner, the some don't to whom are us, but this is you know, tell in Chag some days of this. L'aspetto della meditazione concentrativa riguarda le riflessioni che lui ci ha appena spiegato. Per fare bene le prostrazioni dobbiamo accompagnarlo da certi modi di riflettere, concentrarci anche sui nostri pensieri, e questo è l'aspetto di perfezione di concentrazione che si coltiva tramite le prostrazioni. Invece l'aspetto di saggezza, che saggezza vuol dire anche discriminazione, è controllare mentalmente se il nostro modo di fare le prostrazioni è giusto oppure sbagliato, cioè fare l'esame critico di discriminazione per vedere se stiamo compiendo nel modo giusto le prostrazioni. Questo è l'aspetto di saggezza delle prostrazioni. Siamo riarrivati al secondo punto delle offerte. Abbiamo già parlato dell'offerta del mandala. La capacità di fare offerte non dipende affatto dalla propria ricchezza, delle proprie capacità finanziarie, perché come abbiamo detto poc'anzi, possiamo offrire tutto ciò che esiste negli universi, perciò non dobbiamo essere ricchi per praticare bene le offerte. Per contro, se noi abbiamo mezzi finanziari e ci limitiamo a offrire solo quello che creiamo mentalmente e non impieghiamo per niente le nostre proprie risorse finanziarie, anche questo non va bene. E come disse Shantideva, io non ho accumulato bene meriti nel passato e quindi adesso non sono ricco, però riesco lo stesso a praticare le offerte tramite le mie offerte mentali. Ah, poi io ne sono mandato di tindak samtan puru ina ini mig longak mig tanda gogor da chigwa ins kaji namring na la yore wa namring na yore. Invece, pur avendo beni materiali, fare lo stesso ragionamento di Shantideva, dire io sono poveraccio, non ho meriti, quindi offro quello che posso offrire mentalmente, è come prendere in giro qualcuno, pretendere di non vedere quando uno ha gli occhi per vedere. E se uno ha la possibilità, ha qualcosa da offrire, uno deve offrire le migliori cose che ha, fare le offerte migliori secondo le proprie capacità. Ci sono due tipi di offerte, le offerte insuperabili e le offerte, per così dire, superabili, cioè che offerte limitate... e offerte comuni. Ta lana yobe chuba sa de kuran kon le yanjo chuba yag ji ya de lana yobe chuba sa lana mebe chuba sa de ku kon le chuba yag ji ta de kon le yag ji mebe lana mebe chuba sa de wa. E le offerte insuperabili sono le offerte superabili e sono le offerte rispetto alle quali si possono trovare di meglio. Mentre le insuperabili, come dice la parola, sono offerte rispetto alle quali non si possono trovare e immaginare migliori e superiori. Riguardo le offerte insuperabili, nei tantra ci sono tanti significati interessanti, però oggi non è il caso che noi facciamo, entriamo in queste spiegazioni. Possiamo dire in genere che le offerte insuperabili sono le offerte che ha fatto il maestro Milarepa. Milarepa disse così: io non posseggo oggetti materiali preziosi da, da offrire, le mie offerte sono il praticare secondo i consigli del mio lama. Fare quindi le pratiche del mio lama, del mio maestro. E effettivamente tutte le azioni virtuose, quindi, che noi compiamo seguendo le istruzioni del maestro, che siano prostrazioni, offerte, recitazione del mantra Om Mani Padme Hum, diventano tutti offerte insuperabili perché seguono i consigli del proprio maestro e sono l'offerta della propria pratica al proprio maestro. Io ho solamente tradotto il fatto che non ti sembra giusto offrire beni materiali quando il Dharma ti raccomanda di distaccarti. Non che si offra anche questo caso di e lui ha risposto al dubbio della funzione del beni materiali, no? Che dirse che du tanye mamoran di serda trapo bulna cetra che cempo mindu da ta sablo dinta tampare so so ki gewe jawa pulna yakare dintra samson de yema ki yaburis bene molto bene men puna tinda da cida sede puna yagumdu san cida di chome de chover wes. Allora, rispetto al dubbio che offrire oro non va bene, allora che ce la vuole domandare, questo lume, questa candela che offriamo, va bene offrirla? Deve essere. È un'offerta? Dio ci va a smettere. I fiori sono un'offerta? Tanti ranzo, ma tu qui in stogo. Tanti ranzo, io ho samlo tu qui in E quindi magari in questo momento siamo un po' confusi perché questo va bene come offerta, questo non va bene. Allora, per essere precisi, la candela e i fiori non sono offerta, sono oggetti di offerta, cioè sostanze, oggetti nel senso di sostanze che servono per fare l'offerta. Non è il fiore o la candela che viene chiamato l'offerta, è l'atto di offerta che è chiamato l'offerta. Fiore e candela sono sostanze o oggetti che servono per fare l'atto di offerta. Cos'è quindi l'offerta? L'offerta è cercare di far gioire la mente dei Buddha, è quella l'offerta. E per prendere un esempio, i genitori amano molto i propri figli e pensano solamente ai loro figli, quindi se i figli fanno qualche cosa di cattivo, di negativo, i genitori sono estremamente dispiaciuti, viceversa se fanno qualcosa di positivo. E lo stesso siamo noi rispetto ai Buddha, e così quando noi facciamo qualcosa di positivo facciamo gioire la mente dei Buddha. La definizione dell'offerta è quella, quindi l'atto di fare un'offerta è l'atto di far gioire le menti dei Buddha. E fiori, candele, sono solamente sostanze che vengono utilizzate per ottenere questo scopo. Dice che ce l'ha, lui non sa riguardo a voi, lui può parlare solo per se stesso. Parlando per se stesso, lui è come un bambino cattivo rispetto ai genitori, no? Dice, lui non può parlare per voi, perché magari tra voi è pieno di Buddha, di Bodhisattva, lui non lo può sapere, perciò parla solo per se stesso. Lui è come un bambino cattivo e perciò per uno come lui fare delle offerte è un tentativo di far gioire la mente dei genitori, tra virgolette, dei Buddha. L'altra funzione delle offerte come antidoto è a quale negatività, a quale difetto serve d'antidoto? Serve d'antidoto al difetto dell'avarizia, avarizia, attaccamento. E un'altra cosa che sicuramente voi sapete, non c'è neanche bisogno che lui lo spieghi, karmicamente, come maturazione karmica, il fare le offerte causa nelle vite future la ricchezza, cioè causa il fatto che noi nasceremo ricchi. Ci sono due aspetti che sono come dei difetti del fare le offerte e comunque di ottenere qualsiasi ricchezza o bene che poi sarà offerto. Ci possono essere difetti dal punto di vista della causa e difetti dal punto di vista della motivazione. Quindi saranno i difetti delle offerte che noi facciamo. E questo è spiegato molto bene nell'Amrim, nel sentiero graduale verso l'illuminazione, e Geshe-la non si addentrerà stasera nella spiegazione. Ah? Sapete che offerta faceva Geshe Ben Kungiel? Ben Kungiel. Da dintra chi do carpoda do na geosem sam du do carpoci vi pare da si parla di offerte. Questa è la sua pratica, è vero, lui praticava così, questo nyamlenki cioè da tra come offerta della sua pratica, sì. Però come offerta materiale. Ah? Le sue azioni. Sosoki Jawa. Ah. Sosoki Jawa. Jawa. Tela. Tela refen. Ore, gishi bego nje sende. Kan menza ji ares ko. Da. Gishi bego nje sende. Tambu kumares. Ah. Anzo laja te kuma kuyni ini dogu sevi ares. Ah. Tedi kuran ge choga jaga ge kala regi yomars kuma kudu. Shulu shoba chedu ini kuran ge 세 코란 칸 얘기면 됐어. 어떤데 쓰기 어렵스. 사야 상가전 코란 칸 얘기면 됐어. 어떤데 지기 어렵스. 또 그건 거치야 버려서는 그건 뭐 릴로 검잡대도 이네 코는 진다 지어 버렸어. 이네 진다데 다 들으면서 연구서도 이네 상시험 아버네야 샤. 나 들은 진다 리 그랬어. 이네 개지셔 이네 쇼바던스 야부 샤. 이네 이제 또 쇼 버렸어. 이네 마 쇼제 투숨 쉐드 야 지든 쇼제 쇼샤스. 이는 마음에 줄어들 편이 이네 탈라바랑가 편이 이네 저외관 쇼브레스 이네 저도 대가로야 벌 파탄바상제 생기지요르 이네 파탄바상제 생기지 지든 캄라 이네 매군제 저버 내가 사가지 풍교 중마서 지든 저제 칼라 탈라다 없으면서 또 진짜 루지요르스 뭐다 진짜 지지요 말했어요. Allora, Ben Kungiel, questo famoso praticante, prima era un ladro, un brigante, e si sfamava rubando alla gente, però successivamente ha detto che facendo il brigante, non ha mai rubando, non ha mai avuto abbastanza poi veramente per potersi sfamare. Poi è diventato un grande praticante, è andato in montagna a meditare. E mentre meditava in montagna, ha saputo che quel giorno doveva andarci a fargli visita un suo sponsor, un suo benefattore. Allora, per fare buona impressione, per riceverlo bene, si è messo a fare grandi pulizie, ha spazzato bene per terra, ha sistemato bene tutte le offerte. A un certo punto si è messo a riflettere e ha pensato che lo ha fatto per gli otto dharma mondani, cioè per motivazioni sbagliate, per fare buona impressione, per ottenere delle cose. Allora era molto dispiaciuto, è uscito fuori, ha preso delle manciate di polvere, di cenere, è entrato dentro e li ha buttati sulle offerte per sporcare tutto. E in quel periodo c'era un grandissimo maestro chiaroveggente realizzato che si chiamava Padampa Sanghe, e a un certo punto ha detto ai suoi discepoli: in questo momento in tutti i mondi non c'è un praticante migliore in questo momento non c'è un praticante migliore che sta facendo offerte migliori di Geshe Ben Kungiel, perché ha offerto la cenere e l'ha gettata in faccia agli otto dharma mondani. Adesso vi racconta una breve biografia di Geshe Ben Kungiel. Bisognerebbe veramente essere praticanti di dharma come lo fu lui, praticare il dharma come lo fece lui. 고님이 다 도체네 총세진 주고요리 이네 건다 메산지그날 내장야리 이네 내장야 대셔도 다 세살로 손이야 로 연구이나 다 그런 리줄이야 저야리 다 릴은 저야리 이네 도 쇼셔도 아마디 메자 아마디 실어 심버리 이네 그게 자만고 샤샤리 다 드네 샤도 지키나 나 상관을 여부 용서를 섬 섬을 진짜 걸어 자자 Vuole raccontarci questa storia che una volta Geshe Ben Kungiel stava andando all'Assa e lì doveva andare a meditare in montagna, in eremitaggio. E, è stato invitato da una famiglia a dormire e mangiare, e questa famiglia aveva tante forme di tè pressato. E lui ha pensato, e questo mi sarà molto utile, mi farà veramente comodo quando io dovrò andare a meditare in montagna, e adesso me ne prendo un pochettino, e ha messo la mano destra su queste forme di tè pressate. In quel momento si è accorto quello che stava facendo, allora con la mano sinistra ha afferrato la sua mano destra e ha cominciato a dire: signora, signora, al ladro, c'è Geshe Ben Kungiel che sta rubando il tè. Dice, questo è il vero praticante, cioè applicare subito alla pratica quello che noi sappiamo, così dobbiamo fare. La vadina chiaia di Paja Yoro was Mima Gumaruas, Paja dice sicuramente. Nella mano destra lui aveva le impronte di quando lui faceva il ladro, aveva queste impronte di rubare nella mano destra che si sono risvegliate, e quindi questo può capitare, dobbiamo fare attenzione che tutti possiamo avere delle impronte di azioni negative che abbiamo una volta compiuto. Siamo arrivati al terzo dei sette rami, molto importante. C'era una signora che ha domandato l'altra volta come si purificano le negatività, dice stasera non c'è, questa sarebbe stata la risposta. Per praticare bene questo terzo ramo dobbiamo servirci dei quattro poteri. Uno è il potere della base, e uno è il potere dell'antidoto positivo, il potere del rifiuto, il potere della determinazione di non compiere in futuro. I più importanti sono i due ultimi. Prima di tutto, qual è il potere della base? Alcuni sotto il potere della base intendono gli oggetti di rifugio. Nella tradizione Gelugpa nostra intendiamo la presa di rifugio e la generazione della bodhicitta come potere della base. E c'è un grande motivo, ragione per farlo. De Salomon Risunana, Sakuran Denia Languris, what did not sing on the Tibasaya there, Simjida Sanjin Saviore, in a Shaya de Kul Deni, in a Shaya de Kul Deni, Salomon Risunana, Sakuran Denia Languis. Il motivo è questo: quando una persona cade per terra, si rialza appoggiandosi sulla terra, quindi. Per terra è caduto e grazie alla terra si rialza. È la stessa cosa. Noi abbiamo compiuto tutte le azioni, nostre azioni negative o rispetto agli esseri senzienti o rispetto ai Buddha. È grazie a loro che ci rialziamo e purifichiamo le nostre azioni. Oh, l'antidoto delle azioni positive, noi possiamo includere in questo secondo potere tutto ciò che possiamo compiere di virtuoso, di positivo, tutte le azioni. Siamo arrivati al potere del rifiuto. Questo riguarda il generare pentimento per le azioni negative compiute. In quale modo possiamo generare questo pentimento? Per illustrare il modo di generare il pentimento, Geshe-la ci dà questo esempio. Mettiamo che ci sono tre persone che bevono insieme tre bicchieri di succo di frutta, no? Uguali. La prima persona beve e dopo poco immediatamente muore. La seconda beve e cade molto malato. Il terzo, che ha bevuto lo stesso succo di frutta, avrà capito ormai che c'è qualcosa che non andava, che era avvelenato, qualche cosa, e avrà molta paura, no? Lo stesso tipo di paura dobbiamo avere noi pensando alle azioni negative che abbiamo compiuto e alle conseguenze che possiamo avere, che già tanti altri hanno avuto e che toccherà sicuramente anche a noi. Lo stesso tipo di dispiacere e di pentimento di aver, tra virgolette, bevuto questo succo avvelenato, di aver sbagliato e bevuto. I maestri dicevano il dispiacere, il pentimento deve essere uguale al aver ingerito veleno, al aver ingerito del veleno. Questo riguarda il modo di procedere con le azioni negative che ricordiamo, quindi che riusciamo a riportare in memoria di questa vita, di recenti e così via. Poi c'è una parte di azioni negative che noi non ricordiamo, che sono nelle vite passate, e riguardo a questi come dobbiamo procedere? Dobbiamo pensare che da tempi senza inizi abbiamo avuto tante vite, quindi abbiamo accumulato tantissime azioni negative di cui in questo momento non possiamo ricordarci e che non abbiamo potuto purificare, e perciò hanno la stessa valenza delle azioni accumulate in questa vita, lo stesso pericolo di risultati negativi, e dobbiamo creare dispiacere pensando anche a queste azioni allo stesso modo. Da E una volta che abbiamo generato la compassione, il pentimento, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo pensare che da questo momento e finché viviamo, fino al momento della nostra morte, siamo determinati e decisi di non ripetere queste azioni negative. E più forte sarà il dispiacere di averle compiute e il pentimento, più forte sarà anche la determinazione di non ripetere l'azione negativa. E se così facciamo, allora non esiste azione negativa, pur pesante che sia e più numerose volte ripetuto che sia, che non è purificabile. Se riusciamo a generare un tale pentimento forte, una tale determinazione di non ripetere, non c'è nulla che non possiamo purificare, e la prova sono le storie raccontate nei sutra. Anche dai tempi di Buddha, per esempio Angulimala, che uccise 999 persone, altri racconti su persone che hanno ucciso il padre e così via, che non solo hanno purificato le negatività, hanno anche ottenuto lo stato di Arhat, con la forza del pentimento, la forza della confessione, della purificazione delle negatività. Noi abbiamo il pericolo costante di compiere azioni negative, cioè ci può capitare in qualsiasi momento. Quando purifichiamo le negatività, come dicevamo, noi prendiamo come testimoni tutti i Buddha e tutti i Bodhisattva, e diciamo che davanti a loro, davanti a testimoni come loro, che queste azioni negative non li compieremo mai più. E allora, però ci capita che noi ci ricadiamo e ricompiamo un'altra volta le stesse azioni negative. E questo è molto negativo, perché abbiamo promesso davanti ai Buddha e ai Bodhisattva di non compierle mai più. Allora nei testi, nei Lamrim, c'è un suggerimento, c'è una possibilità che viene ammessa come positiva. Per le persone che pensano di non poter mantenere questa promessa, va bene promettere di non commettere quella specificazione negativa per un mese, di non commetterlo per un anno. Questo è ammesso ed è utile, ed è una tecnica menzionata nell'Amrim. Geshe-la chiede di meditare e praticare un po' la pazienza riguardo a lui questa sera, perché abbiamo finito il tempo, ci tiene un altro pochettino e ci dice molto brevemente gli altri rami di questi sette rami. E se avete da fare, avete fretta, chi deve uscire lo può benissimo fare. Parresena ya pejena yores lagwa de chana soya yosam de lagwa chan de gres lagwa thanda yoba de da chan soba yide de gyo mares de sungu yores c'è il pericolo che le persone diranno allora va benissimo, tutte le negatività sono purificabili, non c'è nessun problema, possiamo compierle tranquillamente, intanto li possiamo purificare. I testi hanno previsto questa obiezione e dicono, hanno portato un esempio per dire perché non va fatto. Se noi ci rompiamo una mano, si può guarire la frattura, no? Se ci domandiamo se per questo motivo bisogna andare avanti e rompersi sempre la mano, la risposta è negativa. Non perché la frattura guarisce, andiamo tutti e ci rompiamo tutti i giorni la mano. È la stessa cosa. I testi dicono che non compiere l'azione negativa e compierla e purificarla non è affatto la stessa cosa, anche se sono purificabili. Lo spampa da toppa di Chaya di Tuxunga. Chaya Tuxunga, tene Celete, Pambatadu. Pambatadu. No, Tobatadu, Pambatadu. Gobe, Goba, Gode. Gobe. Non Pambu Pampayore. Tene Tadila Dropiri. Ote, Cele. Allora, tutti i rami contribuiscono a tutti i risultati, tutti gli antidoti, eccetera, però poi ci sono qualità particolari. La qualità particolare di questo ramo è che contribuisce a eliminare i tre klesha, i cosiddetti tre veleni di attaccamento, odio e ignoranza. E come attività contribuisce all'attività dell'abbandono delle negatività. Siamo arrivati al ramo del gioire dei meriti, il quarto ramo. Beva chumu labjin chodu ba gela jesu yiran chodu sumus gela yamu ga gewa sanin dune oda te kongres. Come dicono i testi, se noi desideriamo un grandissimo beneficio con pochissima fatica, è questa la pratica da fare, perché con relativamente pochissimo impegno accumuliamo meriti incalcolabili con il gioire dei meriti. Che chiam bum de jita che pure jesu yiran gomde na dopo tomeng cha senge dopo ma jesu yiran gomde dopo tugu yin cha bum de ji sebe sono mangde kol tugu yares ya josu kan sa shin da ji ge cha bum ji che ji ge bige jesu yiran gomde yin ha jesu yiran gomde de dopo to she cha senge dopo ma yin kolan ma tugu yares ho tinde ji res ta. Per dare un esempio, mettiamo che c'è una persona che sta facendo 100.000 prostrazioni e c'è un'altra persona che la sta guardando e sta gioiendo tantissimo dei suoi meriti. Se per caso le realizzazioni della persona che sta guardando sono maggiori, non solo accumulerà la stessa quantità dei meriti di quello che fa le prostrazioni senza fare nulla, ma se le sue realizzazioni sono maggiori, accumulerà ancora più meriti di quello che sta faticando a fare le prostrazioni. Come antidoto, serve da antidoto alla gelosia e all'invidia, il gioire dei meriti altrui. La gelosia e l'invidia sono ciò che ci rende infelici a tutti quanti. Per esempio, diciamo, lui ha comprato una macchina nuova e io adesso come faccio? E l'altro risultato è che quando otterremo lo stato di un Buddha, chiunque vedrà ci vedrà fisicamente, ci incontrerà, avrà solo risultati positivi. Per esempio, quando chiunque vede Sua Santità il Dalai Lama, ha solo risultati positivi, impressione positiva e pensieri positivi. E questo è il tipo di risultato che deriva da questa pratica. Allora, parliamo del quinto ramo, che è quello di chiedere di girare la ruota del Dharma. Per esempio, quando il Buddha viene nel mondo, noi dobbiamo chiedergli di dare insegnamenti del Dharma. E lo stesso per i maestri che vengono anche al nostro centro, bisogna fare la richiesta per ricevere insegnamenti, che è chiamato richiesta di far girare la ruota del Dharma. E questo comporta tantissimi benefici. E a cosa serve come antidoto? A quale negatività serve come antidoto? Alla negatività dell'abbandono del Dharma, cioè tutto ciò che cade sotto il titolo di abbandono del Dharma è considerato un'accumulazione molto grande di azioni negative, di karma negativo. Questo serve da antidoto a questa grande negatività. Allora, quale risultato dà? Si dice che il Buddha ha 32 qualità maggiori e uno di questi, una qualità della voce che è chiamata la voce simile alla conchiglia del Dharma. Dà questa qualità della voce del Buddha. Allora dice, lui in Spagna racconta una piccola storia, cioè un piccolo modo di dire, che dice, oggi come oggi la scienza ha fatto progressi enormi, passi da gigante. C'è un lama, un maestro, che dà degli insegnamenti in un certo paese, per esempio in Spagna, e tramite internet, siccome viene... c'è la possibilità di diramare gli insegnamenti tramite internet, magari c'è in Taiwan qualcuno che lo traduce in cinese, in Cina qualcuno che lo traduce in cinese, in Germania qualcuno che lo traduce in tedesco. Se ci domandiamo se in passato c'erano possibilità del genere, allora, si dice che se un Buddha viene da insegnamenti, allora chiunque ovunque del mondo lo sente e lo capisce nella propria lingua. Il Buddha non aveva bisogno di traduttore, quindi... senza i progressi scientifici, questa è una delle qualità della voce del Buddha, delle 32 segni maggiori, una delle qualità della voce del Buddha. Quindi, Jidin Kamla, Semjin, Yodhi Jogi, Sanjala, Chuba Mandawa, Riri, Yashubi, Tu Jiloma, Chuba Kanga Lendi, Tu Jil Sungu Yores, what the Sung Chuji Tung Singh the Chuba Ta. Allora, Si dice anche delle qualità della parola del Buddha che in qualsiasi mondo, in qualsiasi universo, e qualsiasi essere che gli fa una domanda, quindi tantissimi esseri che gli fanno domande svariate, lui riesce con la stessa frase rispondere contemporaneamente a tutti gli esseri nello stesso momento, e questa è una delle qualità particolari della parola del Buddha. E dice che c'era: se voi non credete a quello che dice lui, potete trovare questa spiegazione nell'Amrim medio di Lamazon Kappa, e se non credete neanche all'Amazon Kappa non c'è più niente da fare. Adesso il sesto ramo è quello di chiedere ai maestri di non passare nel parinirvana. E in pratica è di chiedere ai maestri di vivere vita lunga. E questo che risultato dà di chiedere al maestro di vivere vita lunga? Purifica le negatività di certi sbagli che abbiamo fatto col nostro comportamento rispetto al lama, di aver disatteso le sue parole, non averlo ascoltato, non aver messo in pratica ciò che ci ha consigliato, di aver turbato la sua mente e di aver in qualche modo danneggiato il suo corpo. E il risultato dell'aver chiesto al maestro di rimanere a lungo, di avere vita lunga, è di avere noi stessi una vita lunga. E riguardo al settimo della dedica dei meriti, ne ha parlato lungamente nella lezione precedente. Perciò voi, la maggior parte di voi, siete venuti nella lezione precedente e l'avete ascoltato. E vi ricordate la storia della signora di Lhasa che sapeva così bene fare le preghiere ai Buddha? E che quello che la seguiva e che non sapeva niente dice apposta tutto a venire così come dice la signora? E questo servirà di antidoto alla visione errata che non crede nelle vite passate e future. E il e l'azione, il risultato di azione di questo settimo ramo è che ci lascia le impronte di energia, di capacità di ottenere i tre corpi del Buddha: il corpo Nirmanakaya di manifestazione, il corpo Sambhogakaya di fruizione e il corpo Dharmakaya del Dharma o della verità. Se c'è qualche domanda, se non siete stanchi, volete fare qualche domanda, potete fare. Il settimo, dedica di meriti. La dedica di meriti. Sì. Yeah. Danno degli accidenti, la tenitura delle cose materiali, quindi quando qualcuno ci condona guardiamo se grandi, piccoli. E invece così mi ha aperto quasi uno. Karesa Simpada podiko hakoma sonda di shedra tuje che tanta tanta hako sonda che tra capo jun son se non so che cosa se mi è sfuggito a me, quindi non ho sentito nel primo punto della tematica di educazione antidoto all'arroganza e le risultati di lezione. Ok, da chatzeluaki Nyempoti narjel ki nyempore, ta jele kare yore di tanta tukta. Chele sanje kusum tuk tukji no shabi yores. Tuk, dovu che. Allora, quando si mettono le mani nei tre punti, le impronte delle dà il potere potenziale di ottenere corpo, parola e mente del Buddha. Kevara chizu lo san chakba yin Tenbe nyingbu rindu se ji shio Chanchu simjo rinpo chin ma ji Panama ki gyu ji Jeva nyamba meva ya Khunne khundu beva shio Jambe babu jidara kienpa ta Kundu sangpo teyan teshin te Teda kunji jesu dalu ji Gyawa teda tamje rabdu mu Tusum shibe gyawa tamje ji Ngoa kala chodo ngakba di Dage gewe tawa di kunja Sangbu chuji rabdu mu wa ji Kanri rave guwe shingang di Penda dewa malin juwe ne Jere sewa tinzi kya zuyi, shave siddhi padu dengyuru jiyu.